Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, serata di campionato con confronto al vertice a Firenze, avvelenata questa partita dalla squalifica per prova televisiva inflitta a Girardino. Ora, tenuto conto di una rivalità che ha radici profonde, mi sarei sinceramente aspettato una vigilia più distensiva dal fronte viola, società e allenatore, più in sintonia insomma con quanto di buono la Fiorentina ha oggettivamente fatto negli ultimi tempi, negli ultimi mesi, direi nell'ultimo paio d'anni, per migliorare l'habitat calcistico. Non è andata così, sentiamo un breve frammento di Prandelli. È stato un attacco alla Fiorentina, ad Alberto, forse molti hanno confuso il nostro fair play con le furbate. Io credo ciecamente in quello che mi ha detto Alberto, è stato un gesto istintivo. Per quanto riguarda la squalifica, c'è un aspetto positivo che può riposare due partite e quindi lo troveremo pronto e fresco con il Monaco. Qui Prandelli, il tono non è per la verità un tono non prandelliano, cioè è un tono direi di accettabile serenità. Le parole sono non particolarmente forti ma discretamente, certo sono state più forti quelle del patron della Valle. Io vi leggerei un ampio frammento, anzi magari ve lo leggo intero, l'articolo di stamane di Candido Cannavò sulla Gazzetta dello Sport. Ho sperato, scrive Cannavò, che la Fiorentina rinunciasse al reclamo per Girardino. Mi sembrava coerente con la politica di Diego e Andrea Della Valle, volta a sollevare il calcio dalle deplorevoli abitudini, da giustificare tutto in nome del risultato, dal clima morbosetto, insomma, in cui si inquadra il caso Girardino. Ecco invece un'occasione perduta. È perduta. Reclamo inviato e bocciato. La rinuncia, lungi dal criminalizzare il giocatore, sarebbe servita a sconfessare le regole di quella cultura inquinata in cui è avvenuto l'episodio mortificante. La mano che spinge la palla in rete, lo sguardo timoroso di gira verso l'arbitro, il grottesco esultare in ossequio a un rituale necessario. Bello sarebbe stato se la Fiorentina avesse lasciato correre, curando in casa quella ferita. E poi Cannavò ricorda, a buona memoria, Candido. 5 anni fa, in tempi oscuri di triade bianconera, nel corso di un Juventus Bologna, Zambrotta cadde in area senza che nessuno lo toccasse. L'arbitro fischiò il rigore. Zambrotta, che ha fama d'atleta esemplare, si fece da parte quasi vergognato. I giocatori del Bologna lo circondarono implorando che dicesse all'arbitro: sono caduto da solo. Ma Zambrotta si allineò alla legge pelosa dell'ambiente. Che diritto hai tu di danneggiare la squadra che ti paga? Proprio la stima per Zambrotta mi indusse a sollevare quel caso. Giraudo rispose alla sua maniera: è tutta un'invenzione giornalistica. Non stupisce il Maradona che oltre 20 anni di distanza, poi parleremo di Maradona in un'altra chiave, non stupisce, conclude Cannavò, il Maradona che oltre 20 anni di distanza glorifica il suo gol di mano con gli inglesi, perché lui è fatto così, chiama in causa persino Dio, per la diabolica abilità di quel gesto. Mi meravigliò molto invece, eccola la buona memoria di Cannavò di nuovo, l'esultanza di Raul dopo un plateale gol di braccio convalidato da un arbitro cieco. I giornali spagnoli innalzarono una barriera in difesa del loro eroe. La prova TV, pur limitata alle azioni disciplinari, è un mezzo pericoloso, talvolta inquietante, ma purtroppo necessario. Il gesto di Girardino, volontario e istintivo che sia, non poteva essere risparmiato. Gira riprenderà a segnare e la Fiorentina proseguirà per la sua strada. Una morale se ne ricava: la lealtà ha un prezzo, pagarlo subito e a testa alta. Un'altra voce, perché? Perché se la Fiorentina rimette i nervi a posto per stasera, io credo che possa tranquillamente fare il colpo anche senza il suo capocannoniere, perché l'Inter, che già non attraversa un grande momento, deve anche rinunciare in pratica all'intero centrocampo titolare, nel senso che non può schierare né Cambiasso, né Muntari, né Vieira, e Stankovic andrà in campo in condizioni forse non ottimali. Non solo, ma nemmeno i nervi di casa nerazzurra sono particolarmente distesi, seppure per vicende diverse. Sentiamo Mourinho. Io non critico mai un giocatore che non gioca bene, mai. Non smetterò mai di dare la faccia per un giocatore che non ha giocato bene. Un giocatore che non ha giocato per la squadra è un'altra storia, perché l'essenza del mio lavoro è la squadra. Quando qualcuno non gioca per la mia squadra, per che ragione devo difendere? Parliamo più tardi su questa e sulle altre 9 vigilie del campionato di stasera. Adesso parliamo di allenatori. Ora, senza la pretesa di offrirvi un catalogo completo, bensì soltanto i nomi principali, i nomi più eclatanti, vi leggo un elenco di allenatori pronti a tornare in pista. Prima quelli sotto contratto, che sono Mancini, sotto contratto fino al 2012 con l'Inter, Novellino, legato fino al 2009 al Torino, Camolese, 2009 Livorno, Tesser, 2009 Mantova, Somma, 2009 Piacenza, Mihajlovic, 2012 Inter, Zeman, 2010 Stella Rossa. E poi andiamo avanti con in ordine sparso Di Carlo, Zaccheroni, Malesani, Galeone, Bavassori, Donadoni, Olivieri, Mondoni, Comutti, Giordano, Sandreani, Papadopoulos, Scala, Simoni. Beh, sono tanti, Cavasin, Colomba, De Cagno, Fascetti, Mazzone, Oddo, Pillon, Guerini, Ficcadenti, Nando Orsi, Ezio Rossi, Viervod, Vialli. Beh, ci metterei anche Gentile. Che dice il mio amico Renzo Olivieri? Ci siamo come catalogo più o meno? Sì, siamo. Probabilmente ce n'è qualcuno in più perché qualcuno so che di quelli che aveva la metà so che ha deciso anche di cessare l'attività, via di godersi anche un po' l'età e la pensione facendo altre cose. Tipo, però, tipo Simoni, per capirci? Sì, Gigi Simoni almeno, sì. Mi sembra. Anche Fascetti qualche volta diceva che preferiva, ecco. Sì. Oh. Poi c'è qualcuno che vuole anche continuare, se gli capita l'occasione. Se gli capita. Adesso parliamo di queste occasioni. Oltre che parte in causa, perché avete sentito che Renzo Olivieri fa parte di questo catalogo a pieno titolo, l'intervento tuo si spiega anche con il ruolo di presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Allora, sbaglio, quest'anno i presidenti ci stanno pensando un po' più del solito prima di licenziare? Ma a me sembra che si sia guadagnato in senno, nel senso che ci si lascia meno trasportare da stati emozionali, da momenti così che hanno portato in passato a fare da parte dei presidenti scelte affrettate che poi nel tempo si sono rivelate anche sbagliate, ecco. Per cui a me fa piacere questo stato di cose, ecco, quello che stiamo vivendo in questo momento. Al di là che, diciamo, dal punto di vista sindacale, è lì che volevo arrivare. Dal punto di vista sindacale, l'onore è un posto, chi fa l'allenatore lo sa, è una cosa dolorosa. È doloroso perché è insuccesso, perché mette in dubbio il tuo lavoro, lo mette in dubbio con te stesso, quindi sono problemi. Però è comunque un posto di lavoro che si libera, ecco, quindi c'è una discussione anche abbastanza aperta sul fatto che chi è esonerato possa andare a lavorare da un'altra parte, no? In qualche nazione questo succede. Ecco, noi riteniamo che probabilmente è più giusta la regolamentazione che abbiamo in Italia. Uno che è esonerato si fa da parte, tantissimi adoperano questi momenti intanto per ricaricarsi, perché è comunque un insuccesso, e poi per aggiornarsi e per migliorare. E la nostra categoria, parlo degli allenatori italiani, credo che sia una categoria che è all'avanguardia. Io sto girando in tante nazioni, sto vedendo allenamenti, guardo cose, credo di poter dire che probabilmente siamo i migliori. Hai detto, hai introdotto già il concetto, ma hai anticipato sul concetto, cioè è chiaro che un presidente dell'Associazione Italiana Allenatori da un lato si occupa di qualità del lavoro, che non può non avere del tempo per essere soprattutto non solo in avvio di stagione per chiunque, ma soprattutto per chi una squadra l'ha appena presa. Da un lato c'è questo aspetto, diciamo, di serietà professionale, dall'altra c'è un aspetto sindacale, e quindi io mi chiedevo se, al di là di questo po' di senno, come hai detto te, in più che si riscontrano i presidenti, non ci sia magari anche un pizzico di recessione, cioè se Cellino, ho detto Cellino, non un conservatore, no? Se Cellino si tiene stretto Allegri a 0 punti dopo non so più quante partite, e adesso ne sta cominciando ad avere un ritorno, ho paura che per voi di quell'elenco di prima butti male davvero, Renzi. Cellino è un presidente avveduto, sembrerebbe, ma io lo conosco bene, ho lavorato con lui, sembrerebbe che potesse decidere così sul piano emozionale, non è così. Lui insomma è un presidente, ormai tanti anni che lo fa, conosce tante cose. Il Cagliari stava giocando bene. Tanto un presidente deve vedere se la squadra gioca bene, se è una squadra equilibrata e se i giocatori sono con l'allenatore, le valutazioni da fare è questo. Quando ci sono queste due cose, nel caso d'Allegri mi sembrava che ci fossero, almeno da quello che si sapeva, ma poi conosco l'ambiente, era così, ecco, la scelta, la scelta che ha fatto Cedino, quella di andare avanti con Allegri in momenti anche di difficoltà, credo che sia stata una scelta giusta proprio tenendo di conto di questi parametri. Certo. Quante sono le panchine a parer tuo destinate a saltare a breve? O meglio, se io dico, guardando, mi fermo alla Serie A, se io dico, guardando la classifica, che un po' tutte le ultime, e cioè Torino in particolare, direi Chievo, mi pare di capire Bologna, e non escluderei affatto Roma, e a questo punto sarebbe una panchina pregiata, ma di quelle vere, sono lì sul filo di una giornata o due, sono molto lontano dalla realtà a parer tuo? Ma secondo me Presidente, il discorso della recessione influisce, diciamo, no? Influisce su tutto, figuriamoci se il mondo del calcio non ne risente. Sembra anche un discorso, sembra ovvio, sarebbe così anormale, succedesse questo, vorrebbe dire che si vivrebbe in un mondo di pazzi, che c'è bisogno proprio di riprendere anche il senso delle proporzioni. Ma è indubbio che chi si trova in fondo alla classifica, laddove il presidente si impaurisce, gli prende paura e comincia a sentire, perché intorno al presidente qualche volta ci sono sirene, no? E cominciano a dire c'è bisogno della svolta e c'è bisogno di cambiare in modo radicale, ma comunque quello che dico, tanto la svolta, no? Ecco, dobbiamo svoltare, qualche volta quando si svolta si ribalta, ecco, per cui bisogna che vengano fatte considerazioni in questo senso, anche se è vero che le sconfitte, poi la sconfitta e poi la sconfitta ancora, qualche volta il lavoro dell'allenatore, anche se ben fatto, qualche volta va in discussione, è normale, certo, perché i risultati, certo, contano. E allora c'è il momento che la squadra comincia a guardare l'allenatore e dire ma insomma dipende da te, no, perché è nella logica delle cose pensare alle colpe degli altri, ecco. E, come si dice, può succedere che un allenatore viene scaricato dai suoi uomini, parliamo in termini crudi, e quando succede questo è doloroso, però la società, ecco, che avverte questa cosa, allora può succedere. Renzo, l'elenco di prima, tu l'hai fatto notare, contiene nomi di mezza età, qualche nome giovane, qualche nome che invece... Non appassiti, per carità, figurati se mi permetto di sbagliare aggettivi con un toscano di San Miniato come te, figuriamoci. Intendo dire però che nel frattempo arrivano i giovani, arrivano, non so, Costa Curta mi sembra l'emblema, sono giovani, certo, sono probabilmente molto bravi, sono certamente un po' affangate, credo che abbiano entrature migliori, no? Vista la provenienza, vista la carriera di quella che può avere un non più giovane allenatore di routine. Questo magari è un problema in più per la categoria. O è una ricchezza in più? No, è la storia di sempre, è chiaro, ma deve essere una cosa naturale che vada accettata da tutti. Spalletti ha avuto una carriera più lunga e più faticosa perché è dovuto partire dalle categorie inferiori, ha un passato di non grande calciatore, quindi carriera più faticosa, però una volta che uno è arrivato è più stabilizzata, proprio perché ha fatto per gradi, per esperienze. Io l'ho avuta ancora più lunga perché sono partito dalla terza categoria, seconda, prima, quarta, l'ho fatte tutte. Ho avuto carriera lunga, uno ha modo di stabilizzarsi più. Che chi ha nome come calciatore abbia qualche vantaggio in più in partenza, io credo, lo ritengo normale, e poi credo debba essere anche una gratificazione che il calcio fa a se stesso poi alla fine. Vero. E poi il lavoro del campo, il mestiere dell'allenatore, che è totalmente diverso da quello dell'allenatore, e i risultati del campo poi ti danno la misura, ecco, dell'allenatore. In partenza c'è questa cosa. Le ultime tre domande a Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. La prima, ovvio che presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e non dell'Associazione Commissari Tecnici. Detto questo, io credo che con tutta la suggestione che la notizia crea, forse l'azzardo degli argentini nell'affidare un ruolo alla CT a Maradona, cioè, non si può negare. È un un grosso azzardo. Ora, su Maradona i giudizi sono stati tantissimi e più disparati, guardano la persona, no? Oltre si sanno tutte la storia. Chi ci racconta di Maradona calciatore ci racconta i suoi compagni di un uomo di grande personalità che era a disposizione degli altri, era un capo non per sé ma per i compagni, viene descritto così, quindi diciamo la struttura mentale sarebbe anche quella giusta. Io ho qualche dubbio, ce l'ho sul piano tecnico, perché non ha fatto scuola allenatori, non ha fatto nulla, quindi credo, ecco, che questo incarico potrebbe aiutare anche a salvarla, a ritornare ecco, quello, sì, quello che era. Detto questo, però, i dubbi sulle qualità tecniche, perché fare il calciatore è una cosa, fare l'allenatore è tutto un altro mestiere, io credo che rimangano. Che abbiano diritto. Senti, Claudio Gentile ha fatto causa alla FIGC, tra l'altro a coppia ritardato, perché sono passati un paio d'anni abbondanti, da responsabile per l'appunto dei tecnici, insomma da presidente dell'associazione allenatori, condividi? Che ne dici? Ma non lo so, è una valutazione non facile da fare, anche perché insomma avrà valutato bene, via, cause da questo punto di vista, credo che sia la prima. È la prima anche perché si basa non su documenti scritti, cioè su contratti, ma su promesse verbali che gli erano state fatte, che tra l'altro non sono mai neanche state molto negate, tra l'altro. Ma insomma, però verba volant, no? Sì, noi abbiamo una regolamentazione per la quale contano gli scritti, contano i contratti, fortunatamente, che è così. Per fare questo bisogna andare, per fare la strada che ha percorso Gentile, c'è la strada del giudice ordinario. Ecco, noi abbiamo una regolamentazione, la clausola contromissoria, che non ci consente, se non abbiamo il permesso, diciamo, della Presidenza federale, di rivolgersi al giudice ordinario. Certo. È una discussione da fare questa, io credo che vada anche aperta la validità di questo istituto, ecco, della clausola compromissoria, o perlomeno che vada un pochino più limitata, perché insomma in sintesi poi va a togliermi anche un diritto, a me un diritto di cittadino normale, quando voglio che le mie questioni vengono risolte da un giudice. Ecco. Certo. Bisognerà lavorarci sopra la cosa, ma dal punto di vista giuridico, cosa che io non sono all'altezza, però è un pensiero, ecco, che uno può fare. È un pensiero che uno può fare, come? L'ultima domanda te l'avrei fatta comunque, ma è sollecitata a maggior ragione da molti ascoltatori che mi hanno scritto sentendoti e che mi dicono: lei non può non fargli questa domanda. Allora la riassumo, perché è una domanda che nasce, ti ripeto, da parecchie persone. Allora, l'uomo nuovo quest'anno dal punto di vista di allenatore è certamente Mourinho. Ora, te la metto così: finora ti ha colpito di più dal punto di vista tattico, disciplinare o mediatico? Disciplinare, mediatico. In Italia dal punto di vista tattico non è che ci si emozioni tanto, perché è una categoria, la nostra, probabilmente... ripeto quello che ho detto prima, è la migliore in assoluto, ma sì, però intendo dire, Renzo, che il cambio sistematico delle ali, per esempio, come accade da due o tre partite, non lo si conosceva, perlomeno da queste parti. Ma insomma viene fatta abbastanza, voglio dire, quando uno richiede alle ali un super lavoro, esempio, io con il Bologna, giocando il 3-4-3, il ruolo sacrificato era quello degli esterni. Lì ci dovevo prevedere le sostituzioni. Ma li toglievi, scusami, al primo o al secondo tempo, giocandoti due cambi? Insomma, qualche volta sì, quando il sacrificio era tanto. Del Neri è un altro allenatore che chiede molto agli esterni, anche se era meno il lavoro, e lui qualche volta inverte, qualche volta sostituisce... No, quello non è quello. Quello che la cosa più importante, se noi pensiamo all'ultima intervista, quella che avete mandato, se si ascolta, in toto ha detto delle cose interessantissime, che poi sono la base del lavoro dell'allenatore, no? Dice: io non criticherò mai i miei calciatori se hanno giocato bene o male, perché i miei giocatori... E poi da ultimo ha fatto capire, ma chiaramente, dice, i miei calciatori sono quelli però che giocano per la squadra. Dice, io mi sono arrabbiato perché qualcuno ha giocato più per sé che per la squadra. Cioè sono messaggi importanti questo che sa dare. Sul piano tecnico-tattico gioca il 4-4-3, ma voglio dire... 4-4-3, uno prende quello di Zeman, probabilmente era un pochino più spettacolare. Il 4-3-3, io, perché sennò fa 11. 4-3-3, sennò non vale. Certo, il modulo era quello, l'interpretazione era diversa. La sua è un'interpretazione un pochino più chiusa. Quando arrivò e chiedevano un po' giudizi, siccome gli allenatori che arrivano in Italia vanno tutti in difficoltà sul piano tattico, perché si trovano a confrontarsi con tantissimi moduli, cosa che nelle altre nazioni non succede, io dissi: guardate bene che Mourinho è un po' più italiano di noi da questo punto di vista, ecco. Tant'è che sul piano tattico difficoltà non ne ha. Il suo calcio è quello, un calcio che di lavoro sulla squadra avversaria, di ripartenze, di attacchi, di contropiede, quindi è molto italiano. È stata un'intervista, ma è stata anche una lezione da più di un punto di vista, sicché grazie a Renzo Olivieri. Prego. Grazie e alla prossima occasione. 800 24 00 24, i primi due ascoltatori sono già in linea dopo abbastanza lunghe prenotazioni oggi, mi segnalano dal centralino. Scrive Andrea da Firenze, molto bello questo messaggio, un saluto da un ascoltatore dal 2002, quindi insomma andiamo indietro negli anni, che è per l'appunto Andrea da Firenze. Dice: io penso che Della Valle abbiano perso un'occasione per portare avanti la politica del fair play, penso però anche che qualche intoppo ci possa stare, perché nessuno è perfetto. Questa mi sembra una sintesi ineccepibile, molto meno tra tanti altri messaggi. Per esempio quest'altro dice: Santo Cannavò, che già trovo gratuitamente ironico, anzi non ironico, però non è divertente. Ci spieghi anche come mai né Maicon in partita né Ibra al giudice sportivo, e questo è vergognoso, sono stati puniti. Un po' di coerenza non guasterebbe. Ed è firmato Eddy. Cannavò non è in collegamento con noi, se vuoi lo spiego io, molto molto alla buona. Maicon non è stato espulso ed è stato un errore dell'arbitro, perché il suo era un fallo da espulsione e non da ammonizione. Purtroppo gli arbitri non sono abbastanza severi in questo tipo di scorrettezze su nessun campo, perlomeno questo è accaduto nelle prime giornate, quindi è stato fatto uno sconto a Maicon, come in precedenza a Jankulowski, a Grieger, l'ho detto, a Diana non ne parliamo. Ibra non è stato squalificato dal giudice sportivo semplicemente perché non era integrabile la prova televisiva a detta del giudice sportivo, che io tra l'altro condivido. Ibrahimovic si è comportato da energumeno, come spessissimo gli accade, ma si è fermato un istante prima di varcare il confine. Quello di Girardino è invece una scorrettezza etica che può integrare la prova televisiva, tutto qua. Roberto, chiamato da Brescia, buongiorno. Oh, buongiorno dottor Garantini, grazie per l'opportunità. Semplicemente questo, sento spesso nel corso della trasmissione che seguo ogni giorno il partito di coloro i quali si sentono ad ogni piè sospinto sconcertati dalle dichiarazioni di Mourinho. Mi pare anche che qualche volta lei si sia anche detto d'accordo con queste persone, e allora volevo sottoporre una riflessione brevissima, che è questa. Ma personalmente mi sento sconcertato quando sento Ancelotti dire bisogna stare molto attenti a questi olandesi, non mi chiedo il nome della squadra perché in 50 anni era la prima volta che la sentivo, perché in casa sono molto forti. Mi sconcerta di più questo che sentire Mourinho dire contro il Catania probabilmente basterà un Inter normale. Sì, poi ci sono voluti due autoreti per la verità, però... Prego? No, intendo dire che insomma, la sua tesi è che Mourinho non è mai banale, a differenza della maggioranza dei tecnici o della quasi totalità, e questo è oggettivamente vero. Poi no, però, vede, dica. Più che banale mi sembra chiaro, cioè si corre il rischio a volte, a mio modo di vedere, di confondere la chiarezza e, tra virgolette, la sincerità del pensiero con l'arroganza. Mi ricordo Spalletti quando la vigilia, ma lì poi ebbe anche ragione, voglio dire fu profeta, hai per lui, alla vigilia della partita con il Cluj disse bisogna stare molto attenti perché questi hanno i brasiliani, dimenticandosi probabilmente che i brasiliani bravi non giocano in Romania a 3.000 euro al mese ma giocano da qualche altra parte prendendo qualcosina in più. Ma bisogna vedere però, Roberto, se nel non essere banali, cioè se nell'essere chiari, poi si riesce a reggere il gioco e bisogna vedere anche se si riesce a non essere incoerenti, tanto per cominciare, no? Visto che due settimane fa ci aveva detto Mourinho in una dichiarazione che mai poi mai avrebbe parlato male di un suo giocatore e invece è accaduto a distanza di un paio di settimane ed è accaduto anche in maniera plateale in campo con insulti abbastanza spinti. Io credo che, per carità, cerchiamo di stare alla larga delle banalità assortite e dai luoghi comuni ad ogni costo, ma io il gioco dialettico che sta facendo Mourinho, secondo me lo ha già in parte incartato e non credo che i suoi rapporti così estremi né con squadra né con società possano andare molto lontano. Questa è un'opinione che credo abbia qualche fondamento già in corso. Scommettiamo che la pubblicità, scrive Barbara, finirà alle 14.39, sarebbe il nuovo record di A Tempo di Sport. Dai Barbara, sono 14.35, non esageriamo, cioè, non alimentiamo questa psicosi che già mi pare sia abbastanza presente. Vorrei sentire la voce di Carlo Ancelotti sui ritardi o sulle nottate di Ronaldinho in discoteca. Adriano e Ronaldinho hanno fatto tardi qualche giorno fa, lei come ha preso la notizia? Adesso, ha fatto tardi? Domenica. Quando? Domenica sera. Che ora ha fatto? Abbiamo dato il permesso fino alle 5, quindi se è rientrata alle 4 benissimo, non c'è problema. Era un frammento della conferenza stampa di ieri di Carlo Ancelotti. Situazione evidentemente diversa da quella di Adriano, perché Adriano era recidivo, insomma, Adriano è stato praticamente messo non convocato per Firenze ed è sulla soglia dell'essere messo fuori rosa perché le mancanze erano tante, insomma, era proprio tutto un percorso. Il suo connazionale sul suo connazionale Ancelotti è stato ben più tollerante, ma soprattutto sapeva che non avrebbe giocato, chissà che per lui non sia anche un sollievo. Insomma, le considerazioni possono essere tante. Gianfranco da Trento, buongiorno. Ah, buonasera Gio Balanzini. Io sono un juventino di vecchia data. Sì. Secondo lei, vorrei un parere, come mai tutti questi infortuni alla Juventus, mi pare che sembra 12-13 giocatori, è il modo di allenarli o li tirano troppo o che cosa succede, insomma, lì una cosa che mi fa stare un po' così. Sì, ascolto la radio. Grazie a lei. Ma non è è un'eccezione della Juventus perché il numero degli attuali infortunati effettivamente è il più alto in Serie A e B, insomma, credo anche isole comprese attualmente, però non è un fenomeno che riguardi soltanto la Juventus. Dicevo prima, per esempio, che stasera per guai muscolari l'Inter rinuncia all'intero centrocampo titolare a Firenze, quindi non è poco nemmeno lì. Le ragioni, insomma, abbiamo provato a indagarle tante volte, no? Ci vorrebbe un discorso lungo, provo a sintetizzare al massimo. Un po', come dice lei, i motori vengono tirati sempre di più e quindi è ovvio che prima o poi possano grippare. Secondo, ma credo primo in ordine di importanza, mi par di capire, parlando anche con medici sportivi, con fisioterapisti, con massaggiatori, con gente che il calcio lo pratica da tanti anni, mi par di capire, anzi è certo, che le preparazioni estive non sono più quelle di una volta, cioè una volta si dedicava 3 settimane, un mese alla messa in forma fisica, atletica del calciatore, con poco pallone progressivo. Oggi al quinto giorno si fa un amichevole in Mondovisione col Manchester United e quindi la preparazione non è più quella. Una delle conseguenze è quella degli infortuni, la prima. Renato Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, cortesemente una curiosità. Ieri sentivo che è stato respinto il ricorso della Fiorentina per il gol di mano di Gilardino. Ma che cosa ha scritto la Fiorentina per rigore? Cioè, che cosa gli ha chiesto? Non ho la motivazione del ricorso, sinceramente. Aveva chiesto che la squalifica fosse annullata, ma non mi sembra reato questo. Aveva sostenuto l'involontarietà, adesso così a grandi linee, l'involontarietà di Gilardino, cioè il fatto che quel colpo di mano da terra fosse un gesto istintivo dovuto anche a una spinta ricevuta da dietro dall'avversario. Io credo che al 50% sia andata proprio così. Io credo che se Gilardino fosse stato più sobrio nel dopo gol, non dico di rinunciare ad ogni genere di esultanza, ma si fosse rifugiato un po' prima verso i compagni, tornando a me, insomma, non lo so, cioè, se la fosse giocata diversamente dopo, io credo che non sarebbe mai arrivata la squalifica da prova TV. Da Trento, Roberto, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sono un tifoso interista. Secondo il mio punto di vista, ascoltando lei, Mourinho in questo momento, la politica che sta facendo con la squadra, non è per riuscire a mandar via tot giocatori a gennaio? Sì, pare che sia uno dei suoi obiettivi, cioè quello. Lui ha chiesto da tempo di sfoltire la rosa per scendere a 21. Lui voleva lavorare, avevo letto, ed è tornata all'attualità in questi giorni, voleva lavorare con 21 giocatori. Poi le dirò che con tutti i guai muscolari che ci sono nella nuova gestione Mourinho, 21 mi sembrerebbero pochi, però lui ha fatto questo numero. La società non lo sta accontentando. Io credo di capire, conoscendo un po' l'ambiente dell'Inter e scoprendo giorno dopo giorno Mourinho, che si stiano accorgendo reciprocamente Moratti che Mourinho è una persona diversa da come se la figurava, e soprattutto Mourinho sta scoprendo che Moratti e la società sono altrettanto diverse da come se le figurava lui. Questa è la sensazione che ho io in questi giorni. Sbaglio secondo lei? No. La mia opinione è similare alla sua, infatti la mia impressione è che sta usando la stampa per far movimento, per far capire che lui è l'allenatore e questi giocatori non servono, sono sbagliati da parte sua. Lui la stampa la sta usando dal primo minuto, insomma, da quando ha messo piede sul suolo italico, però in questo momento appunto l'uso, se si può dire che ne sta facendo, è mirato indubbiamente nella direzione che dice lei. Marco, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, io concordo, da sportivo, concordo con lei che la punizione di Gilardino è stata data per l'esultanza dopo il gol. Però volevo una delucidazione, in parte credo che abbia già risposto, ma non ho sentito bene. Sulla brutalità dell'intervento di Maicon. Volevo sapere la prova TV dove era, perché dovrebbe essere qualcosa al di sopra delle parti. No, Gilardino... Marco, no, non facciamo confusione, non c'entra nulla la prova TV. È ancora in linea? Sì. Non c'entra nulla la prova TV su questo, perché sennò allora si mette la moviola in campo ed è un altro film. Insomma, la prova TV. Può essere applicata soltanto per episodi sfuggiti alla valutazione arbitrale. Questa è la caratteristica di base, per cui l'arbitro ha molto mal valutato l'entrata di Maicon, quella di Diana, quella di Ankulowski, ripeto, finché ce n'è, ma non si può dire che non le abbia viste, no? Perché erano a campo libero, quindi quella è una valutazione errata e su questo la prova televisiva non ha diritto di applicazione. Nel caso di Gilardino è sfuggito un episodio di palese antisportività all'arbitro e in questo caso è intervenuta la moviola. È un po' più capzioso questo utilizzo e infatti non c'è dubbio che sia discutibile, perché entrando in questa maniera per queste casistiche si rischia poi, per l'appunto, che si comincia a pensare che sono i figli e i figliastri. Però Maicon non era comunque ammissibile come prova TV. Soddisfatto, rimborsato? Soddisfattissimo. Scusi. Mario da Milano, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Volevo vedere se suffragava la mia considerazione. In classifica oggi vediamo un affollamento di squadre senza offendere nessuno, anche non di primissimo piano. Io sono convinto che perché queste squadre, Udinese, Napoli, eccetera, non siano ancora successi degli infortuni, credo che a Natale lì ci sia Milan, Juventus e Inter, che hanno avuto decisamente un numero di infortunati, come diceva lei prima, molto elevato. Grazie. È probabile che sia così, io spero francamente di no, e quindi spero invece a Natale, cioè, la mia speranza, per quel che può valere, e poi senza per questo perderci sonno, sarebbe invece di continuare a trovare anche a Natale Napoli, Udinese, Fiorentina, e magari un'altra di queste qua, se non proprio in vetta, ma ancora comunque in grado di competere come si deve. So che non è probabilissimo, so che sarà dura, ma mi sembra anche che ce la si possa fare, perlomeno fin lì, perlomeno fino a Natale, perché mi sembra che, con l'eccezione del Milan, il grafico delle tre a strisce non stia andando particolarmente in salita, al momento ancora. Poi certamente arriverà il punto in cui lo sarà, puntato all'insù, ma per adesso forse non ancora, forse naturalmente. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 29 ottobre 1960. Fresco dell'oro olimpico ottenuto a Roma, il 18enne Cassius Clay esordisce nel pugilato professionistico. A Louisville, Kentucky, sua città natale, affronta il peso massimo Tunney Hunsaker, più anziano di lui di 10 anni. Il futuro Muhammad Ali esibisce immediatamente una superiorità schiacciante e domina le 6 riprese del match, ottenendo una larga vittoria ai punti. Dovrà però vincere altri 18 incontri, di cui 15 per KO, per strappare la prima chance di combattere per un titolo mondiale. E non la sprecherà, battendo Sonny Liston il 25 febbraio 1964. Torniamo all'attualità, un ascoltatore, poi magari due o tre voci di vigilia di partite, visto che stasera si gioca, e come se si gioca. Marco da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, tifoso juventino e tifoso di Moggi. Dunque, io volevo ricordare di Ibrahimovic un bel episodio che neanche Moggi riuscì a fargli togliere la squalifica. Inter-Juventus. Sì. Il signor Cordova diede un bel calcione a Ibrahimovic. Ibrahimovic si girò verso di lui, gli portò una mano verso il collo. Sì. Cordova, che è un mingherlino, stramazzò a terra come morto e prese dalla prova televisiva, perché l'arbitro non lo... Tre giornate. E neanche oggi fargliele togliere. Ora, io sento negli stadi ultimamente una voce che continua a dire: come la Juve, siete come la Juve. Forse l'Inter dovrebbe interrogarsi un po' su queste cose, perché mi sembra che gli stiano sempre capitando solo a loro certi episodi. Cosa ne pensa? Io domenica, no, sinceramente non sono d'accordo, perché la prova TV, non sono d'accordo nemmeno con Beccantini, che ha sostenuto questa tesi. Una delle rare volte sono in disaccordo con lui, perché mi pare che stavolta l'arbitro abbia seguito quello che è successo tra Maicon e Motta, tra Ibrahimovic e Motta, e lo ha ritenuto di non sufficiente gravità, mentre allora non vide quell'episodio, e questo integrò l'inizio dell'applicazione della prova televisiva, credo di ricordare, perché poi non ho nemmeno questa memoria di ferro, non ho molto frequentato Moggi a differenza di altri, e quindi sa, anche questo probabilmente mi manca nel curriculum, però credo che questa sia la differenza fondamentale. Se poi lei vuol fare paragoni tra questa Inter e quella Juventus, io ogni tanto qualche sospetto, ma non di rete distesa, semplicemente di sudditanza, sia ben chiaro. L'anno scorso ne ho avuti parecchi. Quest'anno, nel finale della partita di domenica, proprio tra la mancata espulsione di Maicon, un paio di valutazioni al limite dell'area, stavo cominciando a sentire non proprio puzza di bruciato, ma quasi, quando ho visto quella leggera, peraltro, spinta su Obin in area di rigore, e Orsato ha fatto cenno di continuare, ha fatto cenno a Obin a rialzarsi e di continuare. Alla Juve di Moggi 2-3 anni fa andava diverso. Claudio da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, fotografi. Dica. Niente, volevo tornare al discorso Mourinho, no? Sì. Oh, mi sente? Sì, sì. Riguardo alle istituzioni, al problema, diciamo così, con Cruz e Adriano. Su Adriano sono pienamente pronto, mi sente? La sento forte e chiaro, Claudio. Proceda sereno. Pronto? Proceda. è lui che non, è lei che non sente noi. Mi dispiace, questo è spiacevole. Prima del prossimo ascoltatore, allora ne approfittiamo per. Abbiamo due frammenti di Spalletti. In uno parla di Mourinho, ma mi sembra che già ne stiamo parlando anche troppo di Mourinho. Allora sentiamo l'altro frammento preso da Sky della vigilia di Spalletti. È stata come sempre molto attenta a quello che mi doveva dire, è stata anche molto carina perché ha cercato di infondermi poi la fiducia giusta per riuscire a superare questo momento, ecco. Fa sempre piacere perché rafforza poi quelle che sono le convinzioni, però so quello che devo fare al di là di quello che è il pensiero degli altri. Ci sono i pensieri degli altri, ci sono anche i punti in classifica, c'è una situazione pesante indubbiamente alla Roma e insomma, è ovvio che nessuna soluzione può essere esclusa in questo momento, anche perché Roma-Sampdoria stasera non è certamente una partita facile per la Roma, per un sacco una sport di motivi. La vigilia della trasferta a Bologna della Juventus, Ranieri. Il fatto che giochi ogni tre giorni, magari un ragazzo ha dei problemi che deve star fuori due settimane o tre settimane, magari sono sei partite, invece prima magari erano soltanto tre, per cui le assenze pesano, però insomma ormai ci siamo anche abituati. Anche se insomma, è un'abitudine un po' difficile da... è una realtà questa con cui è un po' difficile fare i conti continuativamente giocando soprattutto ogni tre giorni. È molto puntuale questo intervento di Alex, un ascoltatore da Udine, si riferisce al milanese precedente che diceva vabbè ma tanti insomma Natalghe se mi testano, questo era il concetto più o meno, no? Inter Milan Juventus, dice beh vorrei far notare che anche l'Udinese da inizio campionato deve fare a meno di Felipe, Zapata, Tissone e Obodo, non sono quattro giocatorini da nulla, magari costano un po' meno di quelli che ne hanno pagati le squadre a strisce, però non sono quattro soggettivi da buttare via, è vero, l'Udinese sta facendo a meno di questi e ha quei punticini che ha messo insieme in classifica. Questo non vuol dire che l'Udinese vincerà lo scudetto, ma vuol dire anche che ha qualche emergenza, è in grado e come di far fronte anche l'Udinese. Dicevo prima del calendario della Roma che le propone stasera una Sampdoria che arriva dopo la prima vittoria in campionato guidata da Cassano, sabato c'è la trasferta sul campo della Juve, insomma non è certamente un momento facile per Spalletti e ripeto non è esclusa nessuna ipotesi avendo davanti due partite di questo genere e venendo già da una striscia di sconfitte impressionante. Massimo, provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Dica, Garanzi. Buongiorno. Io vorrei dire una cosettina, vorrei parlare della partita Fiorentina-Inter, sì. E rimarcare una cosa di cui nessuno si è accorto. Sta nessuno attento, l'ha detto. Sta attento perché Fiorentina gioca senza Gilardino. L'Inter, cogliendo la palla al balzo e dimostrando una sportività che va oltre anche il lecito, secondo me, lascia a casa Adriano e Cruz, addirittura due. Cioè l'Inter vuol giocare ad armi pari. Ora nessuna grande penna ha rimarcato questa faccenda qua. Mi chiedo se debba essere un cugino come me a parlare della grande sportività dell'Inter. Non so se sia solo di Mourinho o di tutta la società. Dottor Garanzi. L'ho detto ieri, io l'ho proprio presentata in questa chiave qua, la doppia assenza man mano che arrivava il bollettino di guerra da Piano Gentile e diceva allora epurato Adriano, e io dicevo ho provato a dire, perché non era poi così impossibile come crede lei farselo venire in mente, primo esempio di fair play dell'Inter, poi è arrivata l'agenzia dopo di Cruz, secondo esempio, poi Mourinho si è fermato lì. Io credo che stasera a Firenze si giochi comunque una grande partita in cui l'assenza che peserà di più è oggettivamente quella di Gilardino. Io credo che l'assenza del miglior Adriano che si era rivisto in qualche fase peserà certamente non altrettanto, ma avrà il suo peso. Dopodiché stavamo parlando prima dell'Udinese che riesce a supplire suppliranno a maggior ragione l'Inter e la Fiorentina, perché non creda che Gilardino è il capocannoniere. è nel suo genere un pezzo unico, ma non creda che né Pazzini né Osvaldo siano due riserve come si intendevano una volta. Saverio, da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo ritornare sull'argomento del gol di mano di Gilardino. Sì. E volevo sapere una sua opinione sull'allenatore Prandelli, che io reputo una persona molto leale, corretto. Diciamo, mi ha un po' deluso il suo difendere a prescindere il suo giocatore, solo perché il difendere a prescindere un giocatore da parte di un allenatore invece è quello che un allenatore deve fare, perlomeno quelli di scuola italiana e perlomeno quelli che non hanno inventato il calcio. Poi c'è modo e modo, e quello di Prandelli ne abbiamo parlato all'inizio, non abbia pazienza Saverio, ma siamo in chiusura e all'inizio ho letto un intero articolo splendido di Candido Cannavò sulla materia. C'era Peter Bescappè in regia, Flavio Suardi in redazione, grazie a tutti, appuntamento a domani.